Edoardo Patriarca, portavoce del Forum del Terzo Settore. Voi avete definito la finanziaria deludente, falsa e offensiva e organizzerete con i sindacati confederali per il 30 novembre un fe sociale unito contro la finanziaria. Voi vi lamentate, mi sembra, essenzialmente sui finanziamenti per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che saranno per il 2005 drasticamente ridotti. Questo per noi è stato un evento importante perché devo dire che per la prima volta nella storia del forum che definiamo col sindacato alcune priorità condivise. In altre occasioni avevamo aderito allo sciopero, anche altri scioperi, però non così attivamente, in modo un po' così da protagonisti. Le questioni che ci stanno a cuore, che sono legate a quella piattaforma, ovviamente riguardano i tagli alla spesa sociale, i tagli ai trasferimenti ai comuni, qui c'è davvero, si sta raschiando il barile, sono minacciati i diritti, è minacciato quel po' di protezione sociale che ancora c'è e anche minacciato il terzo settore, perché tagliare il sociale vuol dire tagliare quel po' di buono che il terzo settore ha fatto in questo paese in termini di coesione, di solidarietà attiva, di impegno nel civile. E oltre a questo ovviamente un'altra piattaforma più articolata. Noi già a suo tempo abbiamo consegnato al governo altri elementi di critici, tra cui ovviamente qui è bene ricordarcelo, tutto il capitolo legato alle politiche internazionali. La finanziaria ancora in bozza, ma mi pare sia ancora così, taglia pesantemente tutto quanto riguarda l'aiuto alla cooperazione e allo sviluppo. Quindi vuol dire anche qui, oltre che far fuori le nostre ONG, vuol dire ridurre il peso degli italiani nel sud del mondo in termini di solidarietà e di presenza. Voi vi lamentate anche per l'assenza di prospettive concrete per il terzo settore e soprattutto per quanto riguarda la finanziaria, l'Italia non sta mantenendo i minimi per i livelli essenziali di assistenza sociale. È mancata da parte del governo, nonostante il governo più volte abbia parlato di non profit, di sostenere il non profit del terzo settore, è mancata in questi anni una politica perlomeno di medio termine. Si va avanti un po' per piccoli contributi, con un approccio ancora della beneficenza e della filantropia, non c'è assolutamente un pensiero che dica cosa si voglia fare di questo nostro mondo. La legge sull'impresa sociale è ancora ferma, non si parla più di riforma della legge sul volontariato, la legge che defiscalizza le donazioni non si sa bene, speriamo trovi spazio nella finanziaria, ma non siamo così fiduciosi. Quindi insomma si parla tanto di sussidiarietà orizzontale ma poi pochissimo praticata. Riguardo invece i livelli essenziali, certo la riforma del titolo quinto della Costituzione assegnava allo Stato, al governo centrale, la definizione dei livelli minimi, i livelli essenziali, cioè i diritti che i cittadini possono esigere su tutto il territorio nazionale, garantendo la qualità al calabrese, al cittadino calabrese e al cittadino trentino. Così non è, questi livelli non sono stati ancora scritti, quindi ci troviamo di fronte a un rischio di vedere 20 welfare diversi, di qualità diversa e quindi con i diritti tutelati a macchia di leopardo. Non è la nostra Repubblica.